Laisi, la domanda è molto diretta. Lei valuta questi documenti che erano già usciti su Dagospia e poi pubblicati dal giornale, da Libero, e non solo dal giornale e da Libero, come documenti veri oppure un falso? Guardi, io ho passato il pomeriggio a fare la cronistoria di come sono arrivati questi documenti e penso che un italiano medio intelligente capisca che non solo è una mascalzonata, ma che purtroppo è una mascalzonata manovrata, quindi qualcosa diventa anche più pesante. Cioè, non è solamente, come dire, una bufala ordinaria. Qualcuno ci ha costruito questa bufala, l'ha piazzata in una polpetta avvelenata e purtroppo questo fra l'altro ha creato anche grande scontro tra il PDL. Lei sa che abbiamo abbandonato il tavolo sulla giustizia. Sì, come no, certo. È stato dovuto a questa vicenda che è inqualificabile. Scusi, perché avete abbandonato il tavolo della giustizia? Sono cose pubblicate dai giornali, mica vengono da... Oppure lei sospetta che vengano dal governo, da Berlusconi o da gente del Popolo della Libertà? Mi spieghi? Beh, mi sembra chiaro che c'è una manovra da parte anche di elementi che sicuramente abbiamo chiesto chiarimento nelle sedi competenti parlamentari per quanto riguarda l'attività dei servizi, perché è chiaro che questa non può essere una mascalzonata creata unicamente dalla parte giornalistica. I giornalisti fanno la loro parte ed è giusto che diano informazioni, però se lei va a vedere sui siti, se ricostruisce un po' la notizia, è incredibile. Cioè, mi scusi un attimo. Un ministro che scusi, no, perché sì, la cosa sì, deve sì. essere chiarita. Allora, un ministro che viene nominato stranamente il 26 luglio. Il ministro di cosa? Di Santa Lucia? Di Santa Lucia. Che fra l'altro non appare, se lei va sul sito del governo di Santa Lucia non appare, appare ancora quello vecchio, appare su quel sito della CIA, ma non quello di Santa Lucia, ok? Appare sul sito della CIA? Sì, se lei va a cercare sul sito della CIA, il governo di Santa Lucia, lì appare il ministro della giustizia che è citato, non appare nella cosa ufficiale. Non solo, questa notizia di una lettera riservata, che stranamente questo ministro a un certo punto appena nominato si mette a fare delle ricerche, strano, no? Su una società offshore, su due società offshore, lei sa che società offshore è impossibile sapere chi sono perché sono la portatore, quindi è tecnicamente impossibile sapere chi siano, virgola, fa quella dichiarazione netta riservata che stranamente appare non su un giornale, perché anche qui l'altra bufala, ma appare su un sito internet di un giornale, sì. Ok? Sito internet di un giornale dominicano, no? Dominicano. La Repubblica di Santo Domingo, cioè lei adesso mi spiega, la Repubblica di Santo Domingo, che cosa, come mai pubblica un documento riservato, quindi non si capisce come sia finito su questo sito qua, di un ministro appena nominato che la prima cosa che fa nella vita è proprio cercare questa società offshore, che lei sa che è opera dei servizi, sta dicendo, non è vera. Ma guardi, io non vuol dire polpetta avvelenata dei servizi, non ho prove da dirlo, ma mi sembra che sia abbastanza chiaro che qualcuno ci ha lavorato. Poi, ma qualcuno chi? In Italia, Raisi? Ma questo senza dubbio, cioè, chi può interessare questa cosa se non l'Italia? Cioè lei dice che uomini dei servizi segreti italiani manovrati dal governo? Questa è la domanda. No, io manovrato dal governo non ho prove, quindi mi rifiuto di dire una cosa. Io dico semplicemente che sicuramente qui c'è dietro la mano dei servizi, questo non c'è un dubbio. Poi da chi siamo manovrati non lo so e non posso dirlo, perché io quando parlo per, come dire... Cioè una cosa costruita in Italia? Ma sicuramente...